Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Buongiorno a tutti voi che vi svegliate oggi con tante immagini a testa. Sì, perché si scontra la visione, appunto, una visione etica, una visione di realpolitik. Vai su Google, cerca Telese. Io posso rappresentare Mr. Senegal? Ma no, dai, non è che Miss Italia conosce la Divina Commedia, dai! Grillo, che è il garante del movimento, ha il compito di valutare le migliori regole sulle candidature. Su queste i parlamentari non ci devono mettere bocca. Vabbè, ma che deve essere biondo e con gli occhi azzurri? I cervelli domani mattina di dormire mezz'ora in più, perché ne ho sentito qualcuno un po' provato questa mattina. State sbagliando tutto. Lei mi permetterà di dire che non può permettersi. Dice sì, ma in realtà Di Battista già sta pensando a prendere il posto di sindaco di Roma. È una passata. Se dovessi scegliere il simbolo di Milano, sceglierei il panettone e non Gattuso. Caro Giannino, che ti vengano a sfondare l'appartamento, il garage. Al 90% avrei avuto la poltrona riassicurata. Secondo me Renzi ha perso il contatto con la realtà. E uno può dire, giusto, e infatti io non dico di no. La speranza e anche la forza di chi non molla sono ciò che ci tiene in piedi, che ci tiene svegli. Popolo dei già svegli, buongiorno, ci svegliamo oggi in un'Italia in cui si discute ancora di Banca Etruria come una malattia, come un nodo che non si riesce a sciogliere, e si discute ancora di fascismo, se ne discute nei talk show, se ne discute nella politica, il fascismo come minaccia, come spettro, come spauracchio, come nodo di polemica. Ovviamente dopo la spedizione di Como. E si discute anche della cronaca, delle grandi questioni civili, di un bambino tolto da una famiglia a cui era affidato da 5 anni. È un paese che fatica a decidere anche sul fine vita, e il paese in cui ci troviamo. Allora buongiorno a tutti, buongiorno a Safiria Leccese, volto di Mediaset, la donna dei miracoli, buongiorno. Buongiorno. Che buongiorno. Qui con noi il miracolo è riuscire a farla svegliare. No, solitamente qual è il tuo bioritmo? No, onestamente Luca, il bioritmo delle 6:30 io ti ammiro. Cioè io ho il bioritmo che vado fino alle 3 di notte, però ti voglio molto bene a stare insieme con te a quest'ora. Animale lunare, bene bene. Allora entriamo insieme a Safiria e a tutti coloro che sono invece nel bioritmo della mattina, nel bioritmo mattutino, entriamo dentro il fritto misto insieme ai nostri amici Rolling Stones. Io ho fatto la campagna per Trump. Perché Antonio Razzi, nella sua campagna elettorale, ha una soluzione per la Corea. Se veniva eletto presidente, cercava una riapertura con la Corea del Nord e di parlare con Kim. Io spero che questo lo faccia subito. Bisogna, io una volta ho detto lo facciamo in Abruzzo con degli arrosticini e un bel Montepulciano d'Abruzzo, sicuramente fa schiarire le idee a tutte e due. Eccolo, così inizia la politica estera. Parla con Kim. Col Montepulciano d'Abruzzo e gli arrosticini, Safiria. No, ma è bellissima la scena, no? Da una parte c'è l'ambasciatrice americana che dice ora la guerra è più vicina, quindi immaginatevi la serietà, la cosa. E poi c'è Razzi che dice io vado da Kim Jong-un con gli arrosticini della pace, ma il bello è che io penso veramente che ne sarebbe capace. E potrebbe forse avere pure un qualche successo, no. Perché almeno per lo stupore, immaginatevi la faccia sua, no? Di fronte agli arrosticini di Razzi, che vorrei dire Luca, ma così comincia la politica estera e lui veramente fa politica estera in commissione. E questa è la cosa incredibile. E mentre il mondo è appeso agli arrosticini di Razzi, Al Senato si approva la fiducia sulla manovra, 149 favorevoli, 93 contrari. Con questi numeri Laura del Senato ha votato la fiducia al governo sul maxi emendamento. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.700, sull'approvazione del quale il governo ha posto la questione di fiducia. Senatori favorevoli 149, senatori contrari 93, senatori astenuti 0, il Senato approva. Allora, mentre questo accadeva, qualcuno ha gridato, il senatore Danna Verdiniano, per non far mancare una carineria che da un po' di tempo non riuscivamo a censire nei dibattiti parlamentari, ha urlato vagliassa a Barbara Lezzi dei 5 Stelle. Abbiamo il governo sotto scacco del gruppo di Verdini, il quale Verdini ci ha chiamato ignoranti, di scarso spessore. Ebbene, guardate, il fatto di essere denigrati, offesi da uno che è condannato in primo grado per il crack di una banca, da un altro che è solo bravo a fare insulti sessisti e a dire che le donne devono girare ben coperte se escono di sera, beh, per noi è motivo di grande onore. E solo con il Partito Democratico possono stare in alleanza. E tu che tecnicamente sei ferrata perché conosci anche le lingue del sud, vagliassa è proprio un insulto, come dire, puttanona? No. Vagliassa è una cosa da donna, tradotto letteralmente significa il sud, donna di cortile, cioè. Quindi una sguaiata. Capito? Cioè, non è un insulto di tipo volgare, è peggio se vogliamo, capito? Cioè, vagliassa è proprio la donna di cortile, quella che non c'ha contenuti, così si mette là e comincia a fare uè. Detto questo, Luca, siamo alla come dire gallina, questa... come dire gallina, oca. Sì, ecco, se la vuoi tradurre per uno di Milano, sì. Vedi, la fortuna di avere Safiria Leccese oggi, eh? Lo spieghiamo anche al nord cosa voleva dire il senatore Danna. Detto questo, però voglio dire una cosa, che io non mi sognerei mai, onestamente, ora senza sbottonarmi, di dare ragione a uno del Movimento 5 Stelle, però non ci stanno questi insulti in Parlamento, no? Cioè non ci stanno, ci hanno stufato, il problema è che ci hanno stufato. Ieri ho seguito la manovra che alle 7:30 l'hanno licenziata dopo una giornata assurda in cui se la sono cantata. Poi vai a vedere, e mentre si parla di cose serie, di dare i fondi alle vittime delle banche, di fare il bonus bebè, di fare il risarcimento per chi cura un familiare in casa, e in Italia ancora siamo messi così, poi si scoprono delle pieghe amene tipo Bolzano, città disagiata, lo sapevate? No! Ci sono dei fondi perché Bolzano è una città disagiata. È la città con la più alta Roma qualità cos'è della vita, secondo il Sole. Sì, non vorrei sapere, insomma, altre cose verso sud che cosa sono, per esempio nella Calabria. E poi ci dobbiamo sentire anche questi insulti. Io, guarda, pur seguendo la politica, sai che, no? O la prendiamo a ridere come facciamo adesso, o se no ci sarebbe andare a prendere a schiaffi. Allora prendiamo a ridere, non prendiamo a schiaffi, ma continua, dicevamo, la guerra su Etruria e il PD attacca Banca Italia. Il procuratore della Repubblica di Arezzo oggi ha fatto chiarezza, deputato Franco Vazzi, menzogne e polemiche. Le responsabilità della Banca d'Italia sono terribilmente evidenti. Noi del PD abbiamo voluto la commissione d'inchiesta, siamo dalla parte dei risparmiatori e andremo fino in fondo. Sembra che su questo si giocherà un pezzo delle elezioni, eh? Essere dalla parte degli risparmiatori contro qualcuno, e il PD sta attaccando Banca Italia. Senti Crozza, Berlusconi ringrazia Fazio e Scalfari. Posso ringraziare pubblicamente? Ma per che cosa? Questa settimana tra lei e Scalfari mi avete dimostrato più amore voi che mia moglie in tutto il matrimonio. No, guardi, vabbè, siamo a livelli assurdi. Mi avete dimostrato più amore che mia moglie. Sì, perché sono stati i due passaggi, come dire, di due arcinemici, l'uomo simbolo di Rai 3 quando era Rai 3 e il direttore fondatore di Repubblica, che hanno, uno con un'intervista, l'altro con una famosa affermazione, sdoganato l'uomo nero. Che sì, dici? Ma vi ricordate? Ma Luca, ci ricordiamo una cosa, perché siamo giovani, ma non così tanto da non ricordarci cosa successe nel 94. Allora, io non pensavo mai di vedere le pagine che sto vedendo adesso, cioè Scalfari che dice che preferisce Berlusconi, perché a un certo punto, dopo il famoso amaro calice del gennaio 94, Repubblica diventò più difficile onestamente da leggere, perché c'erano mediamente 18 pagine di Cavaliere Nero, cioè le pagine tipo di state a lutto con scritto sopra Cavaliere Nero. E vedi, i tempi cambiano, cambiano le opinioni, cambia tutto. Cambia tutto, esatto. Abbiamo visto anche questo cambiamento e ci fa piacere. Senti però la frase meravigliosa di Berlusconi che dice: si vivrà una profezia fino a 125 anni e servono le pensioni da 1000 euro. Io ho promosso alcuni studi e secondo questi ricercatori l'obiettivo a portata di mano è quello di accrescere la prospettiva di vita fino a 125 anni. Tutto questo apre prospettive affascinanti ma anche diversi problemi concreti. Per questo noi consideriamo indispensabile e anche moralmente doveroso aumentare i minimi pensionistici ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità. Ah, questa è meravigliosa, perché il Cavaliere si occupa anche di demografia, solo se lo dice a Oscar, il nostro Oscar Giannino, che si vive fino a 125 anni e per 45 anni si percepisce, o anche 50, una pensione di 1000 euro, quello sviene. E che dici, la profezia? Ci arriveremo ai 125 anni di Berlusconi? Safiria? Eccoci, no, sentivo Giannino, allora... No, io dicevo, siccome discutiamo sempre di pensioni, che Oscar sviene se fa il conto... Ci credo, Luca, perché esiste un paese in Italia che si chiama Campo di Mele, dove la media dell'età è 110 anni, cioè se uno muore a 105 è morto giovane. Dov'è? E sono state fatte varie inchieste a confine tra Lazio e Frosinate... Si chiama Campo di Mele, segnatevelo. No, di corsa. Espatriamo a Campo di Mele. Esatto. Però attenzione, non vorrei darvi questa notizia, perché è vero che vivono mediamente 110-115 anni e sono state fatte lì le uniche inchieste in Italia sull'ultracentenari. Qual è il punto? Sapete però come vivono? Come? Vivono giocando a carte, mangiando le loro mele, non mangiano carne. Vivono dei prodotti dell'orto. Non mi pare che né noi né Berlusconi facciamo questa vita qui, però è bello avere questa speranza. Cioè, tutti esiste in provincia di Latina a mangiare mele. Però attenzione, Safiria, perché questo è un personaggio che illumina tutto, che tutti si fermano. È diventata la voce più discussa ieri. È tornato da Lilli Gruber Lapo il cane. Da italiano, quando Renzi iniziò, avevo speranze. E la realtà dei fatti è che dopo aver visto come si pone, come si porta, le mie speranze sono cadute. Si piace troppo e questo è pericoloso. Da quarantenne mi auspicavo di avere un giovane al potere e un giovane che guidasse il paese. Ma la realtà dei fatti è che è più provinciale di quanto sembra. Non è un Macron, Renzi. Dunque, diciamo, c'è Macron e c'è Micron. Ma non è possibile, la cattiveria di Lapo, maître à penser, non è Macron, è Micron. però una cosa l'ha detta vera, e mi dispiace sottolineare e dire che Lapo ha ragione. No, adesso non fare politica così banalmente, non cavalcando. Non lo potrei fare mai. No, scherzo. No. Cosa, Luca, però una cosa me la devi far dire. Perché una persona che ha 40 anni, facciamoci solo questa domanda e non ci diamo la risposta, perché una persona che ha 40 anni ha in mano mezza Italia, sente il bisogno non richiesto di fare un referendum in cui dice o siete con me o siete contro di me, se non avesse un problema col suo io. Tutto. Non ne parliamo di questo, ma invece di Lapo, quanto ti affascina? Affascina poco, perché secondo me è un... Ieri era proprio pareri divisi, mamma, che sta dicendo questo, oppure Lapo è diventato un grande intellettuale? No, secondo me è un ragazzo molto molto intelligente, e che però, come insomma la vita ha dimostrato, ha dei grossi problemi, quindi non riesco a sentirne un fascino, perché intuisco delle fragilità grandissime, quindi mi fa sorridere, ma è un sorriso anche un po'... un po' di amarezza. Il tema del giorno, il raid degli skinhead a Como, Alessandra Mussolini minimizza. Se 13 persone un giorno entrano mentre lei sta facendo una riunione con i suoi collaboratori, sai quante volte lo hanno fatto i centri sociali e leggono un comunicato, lei che fa? Allora, lo sa che cosa mi è successo? Io ero a Firenze all'università e sono arrivati tanti ragazzi dei centri sociali, alcuni incappucciati, quindi non a volto scoperto. Qual è il problema? Che se lo fanno a sinistra si può fare, no, se uno non è di sinistra è un blitz. Ma chi la vede? No, non è così, mi perdoni. Che dici, minimalista o massimalista tu sei nell'analisi di questo episodio? Massimalista, nel senso che queste sono cose che andrebbero da tutti sottolineate senza preoccuparsi della propria difesa politica. Su questo non c'è da scherzare, non mi va di scherzare su queste cose qui, nel senso che loro ne fanno sempre un problema politico e non capiscono che prima della politica c'è la vita, cioè la politica si fa sulla vita, e queste cose qua secondo me dovrebbero trasversalmente. La stessa opinione che hai espresso, quasi con le stesse parole, Roberto Maroni. Allora ci fermiamo per il traffico e torniamo con Safiria Leccese fra pochi minuti. Ma santa c'è, ma non avete niente di meglio da parlare? Mattino. I già svegli. Radio 24 mattina. Ogni mattina quando canta il gallo c'è già Telese sopra il piedistallo che illustra con sapienza e con perizia ogni interessantissima notizia. Quando m'appresto alle fatiche del giorno, l'alba è ancora lontana, mentre resta solo un confuso ricordo dei sogni svaniti al risveglio. Io mi sveglio molto presto, ma perché così vivo di tu è stato cosciente. La mia telefonata però voleva essere anche per forza, che la maestra ha detto zebra. Mi domando come i bambini romani riescono a fare un dettato. Anche lei che ce la sta mettendo tutta, ogni tanto qualche subito, qualche ragione viene fuori. Telese, guarda che la maestra è sbagliata perché zebra ha una sola B, però anche tu mi sembri un po' sulla stessa linea, perché cibo anche lui ha una sola B. Telese, ma sei capace di dire glifosato invece di glisofato? Ma se siete voi prima quando in radio trasmettete summit, invece dicono summit, plus, che si dice plus, Telese, sei un po' più coerente. Ragazzi, sono molto contento che ci siate voi a darmi lezioni, perché siamo tutti mortali, siamo tutti fallibili, siamo tutti fragili, soprattutto a quest'ora della mattina. Io sono tendenzialmente ubriaco e dico cibo. Tu, Safiria, come te la cavi con le edizioni quando sei nei tuoi programmi, nei tuoi collegamenti, nei tuoi servizi? Come me la cavo, Luca? Scusa, con l'addizione. Di mattina male, perché tutta la bocca impastata. Io prima di sentire voi ho fatto un paio di sciacqui, mi sembrava. Però non ce l'hai proprio l'accento terrone, ti sei ripulita. No, al contrario di me. Ma sai che i televisivi un tempo facevano i corsi di dizione. Poi adesso non si usano più, però se ci mettiamo a parlare si sente, a voglia che si sente che sono del sud. Senti questa incredibile telefonata alla zanzara di uno dei leader del fronte Veneto Skinheads, che ha detto: beh, ma in fondo anche Hitler ha fatto delle cose belle. Tanto per capirci, il fascismo ha fatto qualcosa di positivo nel nostro paese? Assolutamente sì. E il nazismo? E il nazismo? Il nazismo nel nostro paese? No, nel nostro paese no, ma in generale ha fatto qualcosa di buono Hitler? Ma a livello di riforme sociali e industriali direi di sì. E qui interveniva l'eroico Parenzo dicendo sì, soprattutto ad Auschwitz ha fatto una grande riforma industriale. E c'è uno sdoganamento progressivo di qualunque cosa. Non so se oggi ne parlano molti editorialisti preoccupati, non so se sono chiacchiere da bar o c'è un fenomeno profondo. Che dici, Safiria? Questo questo è il punto, che invece secondo me c'è un fenomeno profondo, perché i social, che hanno tante cose buone, hanno questo di negativo: fanno sentire tutti quanti opinionisti. Brava. E tutti quanti sulla superficie delle cose. Cioè noi, Luca, stiamo andando, ma non lo dico, cioè, perché sennò sembra uno c'ha 100 anni veramente già, ma siamo sempre sulla superficie delle cose, gente che non sa niente, che magari non ha mai visto veramente quello che ha fatto Hitler e non si è andato mai a documentare su quante persone ha sterminato, da quale idea è riuscito a coinvolgere una popolazione, quindi che tipo di incarnazione di male, ma in senso profondo, è andato ad incarnare, perché non è che lui li ha sterminati da solo, no? Quindi bisognerebbe chiedersi che tipo di persuasione. Pensa, è stato condannato ieri il contabile di Auschwitz a 93 anni, dovrà tornare in prigione, il contabile. Capito? Quindi ecco, dire queste cose, dirle sui social, dire ah, io mi sento che lui ha fatto la riforma sociale, cioè siamo arrivati a un punto per cui questi mezzi sono usati in una maniera che ci sta portando un po', secondo me, un po' lontano dalla verità. Contro i pro gender. Eh sì, si tratta del concerto del prossimo 1° dicembre 2017, cioè tra qualche giorno, e a volerlo censurare questa volta sono quelli di Sinistra Italiana, che senza mai aver visto o sentito un mio concerto, o come in questo caso un convegno concerto con l'avvocato Gianfranco Amato, questi psicanalizzano il tutto e ci danno gratuitamente dei seminatori di odio, di intolleranza, di omofobia. Ora io questa cosa la vorrei chiamare mafia, la vorrei chiamare regime, la vorrei chiamare dittatura ideologica, però la chiamo semplicemente ignoranza. Come quando i bambini fanno e invece Povi è diventato un uomo simbolo di un'Italia divisa, anche lui. E senti invece Michele Serra sull'importanza delle parole politici. Di solito non parla mai, è andato in televisione per promuovere da Nemo, per promuovere Gli Sdraiati, film tratto dal suo libro. Ricordatevi che le parole descrivono chi le adopera. Se uno dice gli immigrati sono tutti delinquenti, non sta definendo gli immigrati, sta definendo se stesso. Se uno dice solo io posso salvare l'Italia, ci sta dicendo pochissimo dell'Italia e moltissimo di se stesso. Chiunque strilla in un talk show o sbraita in una piazza o digita sui social, le sue parole parlano di lui. Chi non rispetta le parole non rispetta se stesso. E vedi, sembrava che ti avesse ascoltato. No, no, è proprio, ha ragione Serra in tutto e per tutto. D'altro canto, per chi crede, insomma, tutto si cambia da una parola e da un verbo. Quindi pensiamo quanto sono importanti le parole. E poi, insomma, ovvia ha ragione di dire che viene discriminato se è una cosa pubblica, ma se uno spazio è privato, fino a prova contraria, ognuno fa entrare in casa propria chi vuole o no. Vero. Senti, William, il duca di Cambridge, si è detto contento per il matrimonio del fratello e ha detto una di quelle battute che secondo me sono scritte agli uffici di stampa della corona, perché è meravigliosa: sono doppiamente felice, finalmente sarà lontano dal mio frigo, mi scrocca sempre il cibo da anni. Yeah, all very excited, delighted for them both, and for me personally, I hope it means he stays out of my fridge. It's something scrounging off all my food he's done over the last few years, so pretty excited. Quest'idea del frigo da cui si scrocca la torta è bella, però, no? Perché l'abbiamo fatta tutti con i fratelli, no? Più grandi. Sì, ma ti immagini che frigo che c'hanno a Buckingham Palace, sarà una specie di portaerei. Valentino Rossi a Radio DJ ha detto di essere felicemente fidanzato con la Penso sua moto. Che quando smetterò con la MotoGP avrò ancora una decina d'anni per poter correre con le macchine. Sei sempre ufficialmente single? Sempre, quando vado alle gare mi piace essere da solo con il mio team, con le mie persone, e non ho tempo per avere un'amorosa quando sono alle Sei gare. Sei sposato con la moto? Sono fine. Sposato con la moto, va bene, felicemente. Un altro long seller italiano, Valentino Rossi. Fino alla prossima bella che gli fa girare la testa. Tutti diciamo così: mi sono sposato col lavoro, poi arriva una e subito siamo pronti a cambiare idea, esce lo spazio, lui scenderà dalla moto, scenderà dall'auto. Eccola, la donna che se la prende col libertino impenitente. Un bacio alla bellissima Safiria, ci scrive Luca, glielo diamo anche noi, speriamo che ritorni, e ci fermiamo per il giornale radio. Ciao Safiria! Babbaleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.